arrivare, stravagante la devo, a Dina mamma di sposarmi contenta e di ferire pur vuol fino a stasera. Ecco il rivale, vi spezzerei la testa di mio mamma. Ebbene, che cos'ha questo baggiano? Ehi, ehi, questo di nostro! Cos'hai che ti disperi? Io mi dispero, perché? Perché non ho denaro? Ne so dove trovarne. Ehi, signorino, denari non hai, fatti soldato, e venti scudi avrai. Come on!